se seguiamo prima di tutto le dichiarazioni ufficiali rilasciate in prima persona dai vertici leader dell'organizzazione, arriviamo a questa conclusione, ossia è arrivato il momento di cambiare la forma, cambiare il metodo, cambiare la metodologia, gli strumenti eccetera. Non è una novità, in realtà lo stesso Giuliani, il leader dell'organizzazione, ne parla dal 99, possiamo dire. Poi da quando appunto si trova in carcere è riuscito a elaborare un nuovo paradigma, come chiama lui, un nuovo percorso per trasformare, ritrasformare la lotta, anche la struttura dell'organizzazione, tenendo in considerazione le dinamiche politiche della Turchia che sono cambiate, non sono quelle del 78, del periodo della nascita dell'organizzazione, le dinamiche internazionali nel Medio Oriente e quelle geopolitiche. E quindi da questo punto di vista possiamo dire che si tratta di un approccio lungimirante, per cui ciò che abbiamo visto negli anni 70, 80, 90 non corrisponde a ciò che propone oggi l'organizzazione. Questa è una mezza delusione per qualcuno? Sì, potrebbe essere, ma penso che sia molto legato anche alle trasformazioni che vivono i paesi e continenti, intere aree, anche tutto il mondo. E quindi sì, stiamo assistendo in realtà a un punto storico che fa parte di un percorso che è stato già annunciato, disegnato. Poi qua non apriamo il discorso legato al confederalismo democratico, ma consiglio vivamente a tutti di studiare, analizzare questo tema che è molto legato e che ci permette di analizzare meglio, comprendere meglio il punto in cui ci troviamo. E poi non possiamo assolutamente ignorare i cambiamenti estremamente recenti. C'è un cambiamento molto grosso in Siria, in Israele, in Palestina, nell'amministrazione statunitense. C'è una svolta soprattutto economica e politica in Iraq, e poi l'allargamento, le politiche di occupazione aggressive dell'Israele e la distruzione e il genocidio in atto in Palestina e il cambiamento radicale che vive da qualche anno anche in Libano. Molto probabilmente assistiamo a un momento storico in cui inizia l'accerchiamento nei confronti dell'Iran, che andrà avanti purtroppo molto probabilmente con un eventuale conflitto armato. Allora, tutto questo non potevamo aspettarci che non avesse nessun tipo di impatto nei confronti della lotta del PKK e di tutte altre dinamiche legate al movimento curdo. Anche in quest'ottica ovviamente le organizzazioni tendono a cambiare e ritrasformarsi. E poi se andiamo all'ultimo pezzo, se andiamo a analizzare il comunicato stampa di ieri, l'organizzazione dice che cessa ogni tipo di attività con quella sigla, non dice che la lotta totalmente è finita, rinuncia alla lotta armata, però propone delle soluzioni, propone il sistema delle comuni, propone il diritto dell'autodifesa, la trasformazione, la lotta per la trasformazione democratica della società attraverso una serie di strumenti che non prevedono l'uso dell'arma. Quindi in realtà la lotta continua, anche perché, se dobbiamo parlare onestamente, le dinamiche politiche che c'erano nel 78 che hanno spinto un gruppo a fondare un'organizzazione del genere in Turchia non sono scomparse del tutto. Quindi la lotta continua con un'altra modalità per via di queste dinamiche che ho provato a illustrare molto velocemente, ma ognuno merita un approfondimento adeguato senz'altro. Quindi non è per me una sconfitta, ma non è neanche una vittoria totale, ma stiamo assistendo a un periodo di trasformazione e cambiamento, che se vogliamo anche con una lettura positiva leggere questi, analizzare questi fatti, ancora un'altra volta, come ha fatto in passato l'organizzazione, passa la palla allo Stato e dice adesso tocca a te, io ho fatto un passo, come in passato varie delegazioni dell'organizzazione erano entrate in Turchia per dire ok, lasciamo le armi, adesso iniziamo a parlare. Purtroppo queste proposte non sono state accettate. Nel comunicato stampa di ieri l'organizzazione cita anche alcuni di questi momenti storici. Anche stavolta possiamo dire che l'organizzazione tenta di fare la stessa cosa, dice adesso io addirittura mi sciolgo, cancello questa sigla, rinuncio alla lotta armata, porterò avanti una lotta politica non armata, ma mi devi creare le basi politiche e giuridiche. E quindi in realtà pretende il cambiamento dallo Stato turco, dicendo che fa il primo passo è l'organizzazione. Anche da questo punto di vista possiamo dire che è un gesto costruttivo più che distruttivo. Ovviamente la domanda consequenziale a quello che hai appena detto è: la Turchia di Erdogan sembra disposta a riconoscere questo gesto e quindi a poi arrivare a una sorta di pacificazione? Questo è il grande punto interrogativo, al quale non abbiamo una risposta e per il quale abbiamo pochissima fiducia. Questo forse sarà la fase più difficile posta di questo percorso, perché ci sono due questioni. Finora siamo arrivati compiendo una serie di atti pratici, tra virgolette, no? Che sono stati relativamente rivoluzionari, straordinari, ma anche facili. Sciogliere un'organizzazione è una questione di un'assemblea, in effetti è successo. Senz'altro un'assemblea con un sacco di crampi nello stomaco, eccetera, non è facile, però è stato fatto. Tuttavia stiamo parlando di una repubblica che dovrebbe trasformarsi, una repubblica che ha più di 100 anni, che sta in piedi con una Costituzione che è l'eredità del colpo di Stato del 1980, della dittatura fascista militare. Stiamo parlando di una repubblica fondata sul genocidio armeno negato, una realtà storica negata. Quindi tutto un percorso di estremo cambiamento aspetta la Turchia. E a guidare questo al potere politico c'è un partito che ha fatto sputare sangue a chiunque in questi 20 anni. Dovrebbe trasformarsi, dovrebbe attivare un percorso di autocritica, ma trasformarsi in modo straordinario, a costo di perdere il sostegno popolare, a costo di perdere anche le elezioni. Queste sono le grandi sfide che sono lì dietro la porta. Vediamo se Ankara è disposto a fare, perché non ci sono delle soluzioni. Molto banalmente, i centri penitenziari sono pieni di persone accusate di attività terroristica. Io, oppure tante altre persone che lavorano nel mondo del giornalismo, non riusciamo a tornare nel nostro paese di origine, viviamo in esilio perché siamo accusati di propaganda terroristica oppure appartenenza a un'organizzazione terroristica. Allora, se quell'organizzazione terroristica definita dallo Stato non c'è più, allora tutti i nostri casi giuridici saranno cancellati, archiviati, e noi potremmo tornare nel nostro paese di origine e fare una politica progressista e democratica di sinistra. Allora Ankara è aperto, pronto per accogliere questo, tollerare questo. Siamo di fronte a un sistema giuridico che fino a qualche settimana fa abbiamo visto ha messo in galera il sindaco più importante del paese, l'avversario principale del Presidente della Repubblica. Sarà scarcerato, quel percorso giuridico fittizio, farlocco, sarà archiviato. Cioè, questo è un... E poi che tipo di fiducia ha il 70% della società nei confronti di Ankara? Ormai stiamo parlando di un governo che riceve malappena il 30% del suo consenso popolare e governa la Turchia da più di 12 anni attraverso gli strumenti antidemocratici. Quindi qua la sfida più grande sta per iniziare, e sarà una sfida molto dura ed è molto pericolosa, perché l'ultimo pezzo legato alla tua domanda è questo: nonostante tutta la nostra positività, per la stragrande maggioranza della società, l'organizzazione di cui parliamo, il PKK, viene percepita come un'organizzazione terroristica. Allora qua dobbiamo prevedere una trasformazione culturale capillare, e molto probabilmente in piazza scenderanno i partiti d'opposizione di destra, molto probabilmente ci sarà una reazione dalle famiglie che hanno perso questi 25-30 mila figli in divisa, che hanno combattuto per il conto dell'esercito turco in questi ultimi 30-40 anni. Allora, con tutte queste parti della società bisogna fare un percorso di riconciliazione, educazione e rieducazione. Questo è un percorso molto lungo, molto difficile, e torna a dire che per fare questo ad Ankara c'è un potere che ha una credibilità, ha una fiducia popolare quasi pari a zero. Questo è un problema.